avrei voluto bene, ma ho avuto un sacco da fare. Il mondo gira, gira e non lo puoi fermare. Mamma, che confusione infernale. T'avrei voluto bene, ma senza farti male. Su questa striscia di mare, su questa striscia di mare, su questa striscia di mare, su questa striscia di mare. T'avrei voluto bene, ma ho visto tante persone. L'amore è un animale, può diventare feroce. T'avremmo avuto bene, ma più con caldo infernale. Mi sono chiuso in me e tu non sei la chiave. Per volare, volare, volare e volare, volare così su questa striscia di mare. Su questa striscia di mare. Su questa striscia di mare. Su questa striscia di mare. Hey, boy.